Wiki Radio. Marianela Garcia Vias, raccontata da Massimo De Giuseppe. I cristiani in Salvador sono oggetto di una persecuzione che deriva dalla loro professione di fede, persecuzione che sperimentano quotidianamente nella lotta per la giustizia accanto ai poveri, per la presa di coscienza e l'organizzazione delle comunità. Il fatto più eclatante è stato certamente l'omicidio di Monsignor Romero, pastore e profeta per gran parte del popolo. Ma sono stati uccisi anche sacerdoti, religiose, catechisti e catechiste. Dal 5 gennaio al 1 ottobre 1980, la Chiesa ha registrato un bilancio di 28 persone assassinate, 21 arrestate, 3 ferite, 18 perseguitate pubblicamente, centinaia messe in grave difficoltà. Si registrano anche incursioni militari contro istituzioni religiose, università, case private, la distruzione della radio dell'Arcivescovado, Radio Isa Equis, assalti contro la Curia, il seminario centrale e la sede della tutela legale. Questo comunicato rientrava nei documenti che facevano parte del Tribunale su El Salvador, organizzato dalla Lega per i diritti dell'uomo, in quello che fu una sorta di evoluzione del Tribunale Russell II, che era stata un'intuizione di Lelio Basso e di un gruppo di giuristi e attivisti per i diritti umani che si era messa in moto dalla fine degli anni 70. Nel 1980 la situazione salvadoregna era entrata nel pieno della complessità e del dramma. L'uccisione di Oscar Arnulfo Romero il 24 marzo del 1980 aveva improvvisamente portato la situazione di questo piccolo paese centroamericano, noto come il Pulgarcito, il pollicino de las Americas, al centro del grande dibattito della stampa internazionale. Nei mesi successivi una situazione di violenza e di escalation, di violazioni dei diritti umani che nel triennio precedente si era sedimentata in modo sempre più inquietante, era sfociata in aperti scontri che alla fine dell'anno, tra ottobre e novembre, avrebbero portato El Salvador all'interno di una lunga guerra civile. Una guerra civile che contrapponeva le istituzioni, lo Stato, le forze militari accompagnate dalla Polizia de Hacienda e dai gruppi paramilitari contro una federazione, una sorta di coordinamento di gruppi rivoluzionari di diversa matrice che si riunivano sotto la sigla di FMLN, il Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. I salvadoregni erano 4 milioni e mezzo prima che cominciassero le due guerre. La guerra tra l'esercito e il Fronte di Liberazione Nazionale, che è la guerriglia di sinistra, e la caccia all'uomo dei corpi di repressione. Leggo sui giornali del 4 marzo che 300.000 persone sono fuggite dai campi verso le città per vivere nelle baracche o nei campi profughi. 300.000 sono riparate in Messico e nei paesi vicini del Centro America. Un altro mezzo milione di salvadoregni è emigrato negli Stati Uniti. Quello di San José de la Montaña, dietro il seminario arcivescovile, è il più affollato dei 7 campi profughi allestiti nella capitale dalle organizzazioni cattoliche. Migliaia di famiglie contadine hanno abbandonato i campi o per sfuggire agli squadroni della morte o perché le zone in cui risiedevano erano divenute terreno di combattimenti. Il movimento contadino vantava nel Salvador una forte tradizione sindacale e anche questo spiega la ferocia con cui i settori delle forze armate e le bande assassine pagate dalla oligarchia agraria si sono accanite sul mondo contadino. Una delle protagoniste della raccolta di documentazione sulla violazione dei diritti umani, che sarebbe poi finita anche su diversi banchi di lavoro che coinvolsero le principali associazioni per la tutela dei diritti umani, dalla Commissione Internazionale para Derechos Humanos dell'ONU fino ad arrivare alla stessa Commissione di Ginevra, ad Amnesty, a Pax Christi, al Christian Science Monitor con le sue campagne in tutela dei diritti in America Latina e nel cosiddetto Terzo Mondo, una delle protagoniste era una giovane salvadoregna di origine spagnola, di nome Marianela Garcia Villas, conosciuta poi come avvocata dei poveri e difensore degli oppressi. Marianela Garcia Villas rappresenta una figura piuttosto originale e al tempo stesso sintomatica della dinamicità culturale di un piccolo paese centroamericano come El Salvador. figlia di un giurista di origine spagnola che insegnava alla UES, la Università Pubblica di San Salvador, si era formata nella borghesia dinamica di uno dei paesi che rispetto ai vicini, Guatemala e Honduras, aveva più mobilità sociale, pur all'interno di un sistema che tra 8 e 900 si era caratterizzato per una forte presenza di oligarchie chiuse e per una molto limitata redistribuzione che aveva prodotto alcuni piccoli elementi di classe media, ma che si separavano socialmente in modo estremamente radicale dalle grandi masse campesine, scontadine, che erano impegnate dalla fine dell'Ottocento principalmente nel settore di esportazione di caffè. Marianela García Villas ha un percorso piuttosto originale, nasce nel 1948, studia per buona parte dei suoi studi superiori e quindi vive anche parte della sua adolescenza non nel piccolo Salvador ma in Europa, in Spagna, in una scuola religiosa di Barcellona. Ritorna poi in Salvador per frequentare gli studi universitari nello stesso Ateneo del padre, la UES, e inizia un percorso che si suddivide attraverso la sua formazione come giurista, come avvocatessa e al tempo stesso in studi filosofici, e dall'altro lato l'impegno all'interno dell'Acción Católica salvadoregna in attività di tipo sociale abbastanza tradizionali. In questo senso bisogna notare che l'esperienza che vive Marianela nel passaggio tra anni 60 e anni 70 nel piccolo El Salvador è segnata da un particolare fermento che aveva caratterizzato il paese. Gli anni 60 sono infatti anni di importanti aperture culturali. Da un lato il progetto dell'Alleanza per il Progresso di Kennedy aveva permesso di avviare esperimenti dal punto di vista dei processi di democratizzazione che avevano rivitalizzato in diversi ambiti il contesto salvadoregno. Dall'altro l'influsso naturale della rivoluzione cubana aveva spinto alcuni gruppi sia dentro al mondo universitario sia anche in ambito campesino a prendere la via della contestazione attraverso o la mobilitazione politica nei quelli che si chiamavano movimenti di massa oppure in certi casi l'adesione a piccoli gruppi di guerriglia che già si erano andati formando nella seconda metà degli anni 60. Il terzo elemento dirompente era invece legato alle trasformazioni della Chiesa Cattolica. Tra anni 60 e anni 70 El Salvador vive infatti una sorta di piccolo laboratorio di sperimentazioni che si svolgono sia a livello alto culturalmente, si pensi al gruppo, all'esperienza dei gesuiti riuniti all'interno della UCA, la Università Centroamericana di San Salvador, che ruotano attorno a figure importantissime nella storia della teologia della liberazione come Ignacio Ellacuría o Juan Sobrino, il primo tra le vittime del massacro nell'università che nell'ottobre del 1989 avrebbe portato alla morte di 6 gesuiti, tra cui Ellacuría, della loro cuoca e della figlia di questa cuoca, Celina Ramos, a cui padre David Maria Turoldo avrebbe dedicato una struggente poesia. Ci siamo collegati con padre Bartolomeo Sorge, che è stato ospite qualche anno fa dell'Università Centroamericana. Lei è stato in Salvador. Ha conosciuto i suoi confratelli assassinati dagli squadroni della morte. Perché ce l'hanno proprio con i gesuiti? Ecco, questo io lo capii quando concelebrai la messa nella chiesa che fu di Monsignor Romero, la domenica mattina alle 8. Ricordo ancora quel giorno, Monsignor Rivera Damas presentò i concelebranti e appena disse che con lui c'erano 2 gesuiti, scoppiò spontaneamente un applauso che era qualche cosa di più di un applauso ordinario, e allora compresi anche poi per l'esperienza di quei giorni che praticamente i gesuiti vivevano accanto alla povera gente, vivevano sul serio la scelta preferenziale dei poveri e la vivevano condividendo le speranze e i drammi di questo cammino di liberazione. Ma quello che soprattutto faceva impressione è vedere che vivevano questa esperienza non solo affettivamente, emotivamente, ma con fede profonda e con intelligenza. E questa miscela di amore, di fede e di intelligenza fa paura ai nemici dei poveri. Ma erano davvero in rapporto con la guerriglia? O è la loro teologia che è sovvertita? Questi sono gesuiti che sono rimasti nel Salvador sapendo di rischiare la vita per fare opera di pace. Hanno fatto sempre opera di mediazione tra le parti opposte, e quando ricevettero i primi colpi di mitra, quando le prime bombe distrussero parte dell'università, risposero al padre Arrupe che diceva: chi ha paura vada via, dicendo: noi resteremo per portare la pace, la nostra missione è essere elementi di pace, e per questo hanno immolato la loro esistenza. La UCA fu un centro di dialogo, di sperimentazione, e al tempo stesso le trasformazioni della Chiesa post-conciliare salvadoregna, sulla scia di Medellin, della seconda conferenza dell'Episcopato latinoamericano, dell'opzione per i poveri, di alcuni fermenti che spesso si schematizzano sotto la sigla di teologia della liberazione, portava a delle nuove formule sperimentali in ambiti rurali. Uno dei casi più interessanti fu ad esempio quello di un sacerdote che Marianella conobbe, che fu molto vicino all'arcivescovo di San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, di nome Rutilio Grande, un sacerdote gesuita salvadoregno che aveva sperimentato in una parrocchia povera, quella di Aguilar, fin dalla prima parte degli anni 70, delle nuove formule di comunità ecclesiali di base, di lavoro con i contadini, che poi gli sarebbero costate l'uccisione nel 1977. Proprio la morte di Rutilio Grande, come è stato ricostruito dalla storiografia, sarebbe stato uno degli elementi determinanti nella presa di posizione in favore dei diritti umani e a sostegno delle strati più poveri, marginali ed esposti alla violenza del Salvador da parte di un ex moderato come Oscar Arnulfo Romero, che è diventato arcivescovo di San Salvador tra le resistenze dei gruppi più progressisti nel 1977. Nell'arco di 2 anni si era trasformato alla fine del 79 in un simbolo della lotta per la tutela dei diritti umani, fino alla sua tragica uccisione all'indomani dell'appello all'obiezione di coscienza ai militari il 24 marzo del 1980. A los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Marianella García Villas diventa nel tempo una figura cruciale dell'opera di tutela dei diritti umani dell'arcivescovado di San Salvador, iniziata già dal predecessore di Monsignor Romero, e che con Monsignor Romero avrebbe assunto dei caratteri molto più dirompenti, anche visibili all'esterno, in una stagione, quella che va dal 77 all'80, di escalation nelle tensioni centroamericane, una stagione che sarebbe stata segnata dalla rivoluzione sandinista in Nicaragua, dalla crescita delle violenze e poi dall'esplosione appunto della guerra civile salvadoregna, delle tensioni in Guatemala costanti e da un nuovo intreccio con la guerra fredda nella prima parte degli anni 80. La storia di Marianella si intreccia profondamente con tutto ciò. Dopo essersi appunto formata nell'Azione Cattolica, Marianella cominciò a lavorare con comunità di base, con gruppi di contadini e soprattutto con gruppi degli strati periferici di San Salvador, in una zona estremamente povera e disagiata che si chiama La Fossa. La Fossa, oggi ahimè una zona segnata da gang e da violenza, e comincia ad alternare il suo lavoro accademico, intellettuale e politico, perché diventa una giovane deputata della Democrazia Cristiana Progressista dei primi anni 70, un lavoro nelle periferie, nelle aree più marginali. La Democrazia Cristiana salvadoregna di José Napoleón Duarte nel 1972 era andata vicinissima all'interno di una coalizione di centrosinistra alla vittoria elettorale, probabilmente da quello che storicamente è stato ricostruito vinse le elezioni, ma si attuò una sorta di frode all'ultimo minuto, un colpo militare organizzato insieme al Partito del Conciliación Nacional che storicamente dominava El Salvador, e si era chiusa l'esperienza progressista, rompendo pezzi della Democrazia Cristiana che poi avrebbero avuto una storia molto complessa. Marianella sarebbe rimasta nel partito fino alla fine del decennio, vivendo tutta una serie di sofferenze e di rotture politiche interne, fino ad abbandonarlo nella congiuntura dei golpe militari del 1980. Ma come si costruisce il rapporto tra l'arcivescovado e Marianella García Villas? Questa giovane dinamica che comincia a lavorare in associazioni per la tutela dei diritti umani, a un certo punto, nel 1978, in aprile per l'esattezza, costituisce insieme a un gruppo molto ristretto di 6 persone una commissione de los derechos humanos che diventa uno degli strumenti pastorali più potenti dell'arcivescovado di San Salvador. Cosa intendo con strumenti pastorali? Romero utilizza 3 grandi herramientas, strumenti appunto, che aiutano la sua azione di pastore e al tempo stesso di uomo impegnato nella difesa dei diritti dei più deboli. Il primo di questi è il soccorso giuridico. Il soccorso giuridico era una struttura che era stata istituita con un gruppo di avvocati coordinati da un giovane giurista, Cuellar, con l'incarico di dare tutela legale ai poveri che vedevano sequestrati, scomparire propri congiunti, soprattutto figli nella gran parte o figlie nella gran parte dei casi, di cui si perdevano totalmente le tracce, oppure vittime di assalti, di sequestri, di colpi quasi sempre commessi o dalla polizia di Hacienda o da gruppi paramilitari filogovernativi, in alcuni casi commessi da gruppi legati alla guerriglia. Il soccorso giuridico è quindi uno strumento di tutela legale. Il secondo strumento era una radio, l'appunto già citata Radio Isaekis, che diffondeva le messe in cattedrale di Monsignor Romero attraverso il circuito della radio panamericana, che si poteva ascoltare in quasi tutto il Centro America e anche in parte del Caribe. Osi pensamiento dell'arzobispado de San Salvador. El mundo de los pobres nos enseña que la liberación llegará no solo cuando los pobres sean puros destinatarios de los beneficios de gobiernos o de la misma iglesia, sino actores y protagonistas ellos mismos de su lucha y de su liberación, desenmascarando así la raíz última de falsos paternalismos aún eclesiales. Radio Isaekis quindi si trasformava in uno strumento non solo pastorale ed ecclesiale, ma dell'inevitabile ricaduta politica, anche perché Monsignor Romero, alla fine della messa della parte religiosa, cominciava a leggere un lungo elenco di nomi, di persone e di casi in cui si denunciavano tutte le violenze registrate nel corso della settimana, i nomi delle persone scomparse e si facevano una serie di appelli alla loro tutela, alla loro salvaguardia. E qui entra il terzo strumento, che è quello di cui si occupava direttamente Marianella con la sua piccola equipe, sottoposta a una serie di pressioni, violenze e anche uccisioni di suoi collaboratori. Questo lavoro consisteva appunto nel riscoprire l'identità delle vittime che si trovavano per le strade e ciglio delle vie spesso sterrate di San Salvador e di altre cittadine o comunità rurali del paese nel corso della settimana. In questo caso bisogna spiegare che, a differenza dell'Argentina o di altri regimi sudamericani in cui si utilizzava il meccanismo della desaparición, i desaparecidos, dove persone venivano fatte scomparire per creare una sorta di ricatto psicologico nei confronti dei familiari, dei congiunti, colpendo soprattutto i settori di attivismo politico che in Argentina e in Cile erano principalmente distribuiti sulla classe media o anche in contesti operai, toccavano giornalisti, toccavano in molti casi studenti, professori, attivisti, eccetera, eccetera. Nel caso del Salvador non funzionava esattamente in questi termini, così come nel vicino Guatemala. In Salvador la morte non doveva scomparire, ma doveva apparire. Si può parlare quasi di un'apparizione della morte, perché in un contesto soprattutto rurale, in buona parte campesino, in parte anche indigeno, come quello salvadoregno, l'idea era quella di terrorizzare la popolazione e evitare, prevenire in questo modo uno suo scivolamento verso delle forme di adesione attive o passive alle diverse forze di guerriglia che nel frattempo crescevano in quel triennio tragico all'interno del Salvador. Marianella Garcia, come si svolge il vostro lavoro come Commissione per i diritti dell'uomo? Nostro lavoro sta dentro di questo mismo marco generale repressivo. La nostra attività si svolge in questo quadro di repressione e quotidianamente siamo testimoni del dolore della gente, dei parenti delle vittime che vengono a chiederci aiuto per sapere dove sono tenuti prigionieri i loro parenti o perché li aiutiamo a rintracciarne i cadaveri. Noi stessi, con le nostre mani, abbiamo dissepolto molte salme per identificarle. Spesso mi è toccato aprire le loro bocche per riconoscerne la dentatura, svestirle per vedere se hanno subito torture e per trovare fare segni di identificazione. Il 90% dei cadaveri vengono rinvenuti sgozzati. Hanno segni di ustione da parte di sostanze chimiche che agiscono così profondamente che i corpi sono totalmente scorticati. Presentano torture agli organi genitali e tutte le donne, prima di essere assassinate, sono state violentate, gli hanno tagliato i segni, sono state spellate. E numerosi casi di cadaveri senza occhi, senza lingua, senza orecchie, con i genitali amputati. Una volta è stato trovato un uomo decapitato mentre la sua compagna aveva il ventre squarciato e dentro di esso la testa dell'uomo. I due cadaveri sono stati rinvenuti in pieno centro della capitale, San Salvador. Dopo l'uccisione di Monsignor Romero e la degenerazione del 1980, un anno segnato appunto da due colpi di Stato in Salvador che poi si sarebbe chiuso con l'apertura di una guerra civile destinata a durare fino al gennaio del 92, a produrre all'incirca 80.000 vittime, quasi tutte di estrazione popolare all'interno di questo piccolo paese, il lavoro di Marianella non si spegne, anzi diventa ancora più complesso e più difficile. Nonostante l'impegno e il sostegno del nuovo arcivescovo, Monsignor Rivera y Damas, una figura cruciale anche nel processo di pacificazione del paese, Marianella è costretta a un certo punto a espatriare, a uscire dal Salvador e a mantenere un meccanismo di reti di denuncia attraverso dei suoi collaboratori che agiscono all'interno del paese. Marianella otterrà una sorta di status, in particolare all'interno della Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite che si riunisce a Ginevra, avrà una protezione da parte di Amnesty, entrerà nella rete di attività di Pax Christi e stabilirà in quegli anni un rapporto privilegiato con l'Italia. C'è un piccolo bellissimo libro scritto all'indomani della morte di Marianella, Marianella e i suoi fratelli, da parte di Raniero Lavalle e Linda Bimbi, che era la collaboratrice più stretta di Lelio Basso e poi una delle animatrici della sezione internazionale della Fondazione Basso, che rappresenta attraverso una sistemazione di interviste e incontri durante i viaggi italiani di Marianella una sorta di vademecum, un libro che pubblicato nel 1983 ebbe anche una serie di riedizioni e una versione scolastica in un contesto in cui l'attenzione agli scenari internazionali era particolarmente vivace nell'Italia del tempo. Linda Bimbi, lei ha conosciuto Marianella che veniva anche spesso in Italia, o dove vi siete conosciute, già qui in Italia o ancora in Sud America? Ci siamo conosciute per la prima volta a Roma. A Roma. È apparsa nella sede della fondazione questa giovane donna, minuta, graziosa, con occhi inconfondibili, gli occhi che hanno preso l'abitudine di vedere i morti da vicino. La sua caratteristica, che subito emanava dal comportamento, era la indignazione. Quando si parla di indignazione, immediatamente il ricordo di Marianella riaffiora. Lei ha una storia molto interessante dal punto di vista di una coscienza che non si ferma mai e che ha molta inventiva per raggiungere i propri ideali. Manteneva rapporti con los compañeros, che non avevano trovato una strada diversa dalla lotta armata. Ho conosciuto molti di questi compañeros, specialmente dopo che lei è morta. Per loro non aveva importanza se lei era cristiana o non era. Per loro era importante che era una compagnera che lottava per il popolo. Il caso Marianella divenne un caso molto importante. Giornalisti come Maurizio Chierici, come Raniero Lavalle, divennero dei suoi amici e referenti italiani. Marianella dava conferenze, viaggiava per il mondo, continuava a raccogliere documentazione che veniva poi portata nella Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite. L'ultima impresa fu un tentativo di rientrare sotto falso nome in Salvador per provare a denunciare l'utilizzo di armi chimiche in alcune operazioni di tierra arrasada, di distruzione di villaggi che erano considerati troppo contigui alla guerriglia, e sarebbe stato per lei anche un incontro fatale. In quell'occasione Marianella fu vittima di un attacco di un battaglione speciale dell'esercito salvadoregno, ferita e riconosciuta, sarebbe stata poi portata, come ricostruito da un'indagine coordinata da Pax Christi, sarebbe stata portata a San Salvador e sottoposta a una serie di torture, ferita molto gravemente, a un certo punto sarebbe stata lasciata morire. Tutto ciò avviene agli inizi del 1983 e l'immediata missione di Pax Christi, coordinata da Adrian Zöller, riuscì a ricostruire i termini tragici di tutta questa vicenda che portò alla morte di Marianella tra il 13 e il 14 marzo del 1983. Marianella Garcia, quali sono i pericoli che voi incontrate nel vostro lavoro come Commissione per i diritti dell'uomo? Los peligros que nosotros tenemos son igual. I pericoli che noi corriamo sono quelli che può correre chiunque si batta per i diritti dell'uomo in una situazione del genere. Insieme alla Chiesa, noi siamo l'unico gruppo che si occupa di denunziare a livello nazionale e internazionale ogni aspetto della violazione dei diritti umani. Noi inoltre aiutiamo la popolazione in tutti i modi possibili. Avete avuto persecuzioni? Sì, sì. Precisamente sin dall'inizio, cioè dal 1978, siamo vittime della repressione. Il nostro vicepresidente è stato ferito in un attentato. Io sono rimasta in carcere per 2 mesi per avere difeso come avvocato dei prigionieri politici. Per 2 volte i nostri uffici sono stati distrutti da bombe ad alto potenziale. Il 3 ottobre è stata assassinata una nostra compagna, responsabile del settore informazione, Maria Magdalena Enriquez. Il suo corpo è stato ritrovato completamente scorticato. Era stata violentata e portava i segni di innumerevoli torture. Il 24 dello stesso mese, un altro compagno della direzione, Ramon Valladares, è stato ucciso anche lui. Ogni giorno riceviamo minacce di morte. I nostri uffici sono vigilati costantemente da poliziotti e soldati. Ma la presa di coscienza del popolo è ormai irreversibile, così come lo è il nostro impegno per conquistare la giustizia e la libertà, per edificare la pace nel nostro paese. Ecco perché il popolo, nonostante la repressione, continua a venire da noi. E noi continuiamo a lavorare. Non ci fermerà nessuno, nemmeno gli Stati Uniti. E noi vamos a continuare hasta conquistar realmente los derechos humanos para nuestro pueblo. La sua morte ebbe un impatto molto forte, nell'immaginario internazionale era ancora presente l'esperienza di Monsignor Romero, all'indomani della cui uccisione erano usciti una lunga serie di libri, articoli, interviste, e concludendo il suo report sulla morte di Marianella, Zöller scrisse un testo estremamente drammatico in cui si legge: Signor Presidente, la tragica fine di Marianella Garcia Villas mostra a tutti gli effetti l'urgenza della situazione del Salvador rispetto alla Convenzione di Ginevra e relativi protocolli, ma chiama in causa anche tutti noi. Il diritto umanitario in quel paese è totalmente beffato da parte delle forze dell'ordine, delle forze armate e dei gruppi paramilitari. La popolazione civile nelle zone rurali è un obiettivo militare. Le comunità vengono bombardate senza lasciare ai civili la possibilità di scappare e tutti gli organismi che cercano di venire in aiuto alle vittime di guerra e alla popolazione sono totalmente demonizzati e considerati alla stregua dei peggiori sovversivi. Marianella, in un'intervista alla giornalista svedese Monica Zak, l'ultima prima di essere uccisa, disse: per i colonnelli dell'esercito sono più pericolosa io di Fidel Castro e più pericolosa un'azione di pace e di tutela che un'azione di guerriglia. Per noi che viviamo quotidianamente le angosce di questa vita, per noi che sentiamo quotidianamente sulla nostra pelle la morte degli altri, per noi che tocchiamo le ferite, i segni delle torture sui cadaveri, per noi che abbiamo ascoltato i testimoni, il pianto silenzioso e anonimo di familiari anonimi, di vittime anonime. Tutto questo è panorama abituale, ma è anche ciò che rafforza e legittima la nostra azione e la lotta del nostro popolo per la conquista del diritto alla vita, a un tetto, a un libro, a un tozzo di pane. Continuiamo a lottare con la voce e con la penna. Il 7 agosto 1948 nasce a San Salvador Marianela García Villas. Massimo De Giuseppe l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Ornella Bellucci e Antonella Borghi. Per riascoltare il programma vai sul sito radio3.rai.it. Per scaricarlo usa l'app Rai Play Radio.